Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Io non so se dovete farvi perdonare qualcosa da vostra madre. Non so se le avete fatto uno sgarro oppure non gliel'avete fatto, ma lei se l'è presa con le madri ogni tanto. Capita, mamma, ogni riferimento è puramente casuale, però io direi che se fossi in voi, anche se non avete fatto nessun torto a vostra madre, ma in futuro magari potreste farlo, fate una cosa, ascoltatevi questa puntata, poi scaricatevela in podcast, perché questa puntata è dedicata alle madri, ma non ovviamente in maniera patetica come potrebbe capitare, non so dove, non dico in un'altra radio o alla televisione. Alla televisione potrebbe essere molto facile che una puntata sulle madri diventi patetica. Ecco, non è questo il caso. Nella puntata di oggi, che è dedicata alle madri, noi raccontiamo due storie molto diverse. Una storia, la prima, è la storia di Gioacchino, o Gino, che è siciliano, e ci racconta una storia che accade molti, molti anni fa, in una Sicilia che sembra veramente uscita da Verga, con queste barche a remi sul mare, le persone che si avvicinano perché sentono il canto di questa donna dalla barca, che è sua madre, e che è commovente. La seconda storia invece è una storia molto, molto contemporanea, invece parla di una mamma anziana che ha un problema vero e proprio, ha un problema di deambulazione, insomma capita a molti, no? di trovarsi, soprattutto quando si diventa anziani e i propri genitori diventano anziani, a dover accudire i propri genitori come loro hanno fatto con noi quando eravamo dei bambini e come in teoria accadrà con i nostri figli. Però la storia che ci ha raccontato Cristina la racconta in un modo diverso dal solito, la racconta come se lei fosse nei panni di sua madre, che non riesce a parlare, non riesce a comunicare, o meglio, non riesce a comunicare in maniera come lo faceva prima, evidentemente un modo per comunicare loro l'hanno trovato, però lei si mette nei suoi panni e osserva il mondo intorno a lei, quindi parlando anche delle figlie, quindi di lei stessa che è l'autrice, Cristina, come se fosse sua madre. Ecco perché vi consiglio ancora una volta, ascoltatevi questa puntata sulle mamme e poi scaricatevela. Si dice che l'anziano viva di ricordi, ma se così fosse il giovane di cosa vivrebbe? Di amnesie. Comunque, accertato che sono anziano, certificato da tutti i documenti anagrafici, sono autorizzato a ricordarmi qualche episodio specifico della mia vita, che probabilmente ricorderebbe anche un giovanotto di primo pelo, per la sua suavità, se avesse vissuto nell'epoca in cui mi riferisco. Da un po' di tempo sono pensionato, essendo stato impiegato per una quarantina d'anni al comune di Catania. Fino a qualche mese fa alternavo mare e altro, un po' di lettura, un po' di scrivere, faccio un po' di attività fisica. Niente, ora il mare è finito e sto pensando di tornare a Santo Domingo a trovare altro mare. Sono appassionato di mare, mi piace fare sci acquatico, windsurf e tutte queste belle cose. Siamo in Sicilia, alla Riviera dei Ciclopi, e chi non la conosce ha perduto qualcosa della vita. È un bel giorno, perché il giorno era veramente bello, pieno di sole, di aria che all'epoca era ancora pura. Andiamo al mare, perché si sa, in Sicilia c'è il mare, bello, azzurro e verde, sfumato o profondo, e cangiante per motivi suoi. In quel giorno una famigliola, cioè la mia, composta da padre, madre, un figlio e una figlia, va a mare a farsi una vacchiata, cioè una gita in barca. Un meraviglioso paesino marinaro, ora zeppo di ristoranti e simili, con un paio di casette, stradine e un piccolo porto naturale, pieno di barche di pescatori. Papà contratta con uno di questi che, per una cifra modesta, si mette ai remi. Niente motori, all'epoca. E ci porta in quella famosa grotta, e poi in quella spiaggetta nascosta, e ancora allo scoglio di Tarzan, meta di intrepidi tuffatori, e così via. Il giro turistico finisce e ci facciamo cullare dal dondolio delle onde ancorati al largo. Che sole, che mare, che poesia. Anche noi bambini stiamo buoni buoni. All'improvviso una voce comincia a cantare, in sordina. Canto che poi, per spontaneità, sale di tono, sgorga in tutta la sua armonia, va su in tutta la bellezza della voce di mia mamma. Mia mamma sta fissando suo marito, però Lei è come assente. Sta cantando una vecchia canzone, O Marinariello. Parla di barche, di marinai e d'amore. Poi il canto finisce e un sorriso appare sul volto della mia bellissima mamma. Tutto intorno è silenzio. Solo lo sciabordio dell'onda sullo scafo di legno. I remi del pescatore sollevati in aria, il blu del cielo e il mare aspettano. Lei ci guarda, come sorpresa dal nostro silenzio, e vede i suoi due pargoli che si stanno tenendo per mano, mentre il papà accarezza i capelli di uno di loro. E allora il sorriso viene accompagnato da una lacrima. Mia mamma era una bellissima donna che ebbe il torto di nascere in tempi inadatti alla sua spettacolare personalità. È nata nei primi del Novecento, dove era doveroso che le donne fossero semi-analfabete, mentre lei aveva un'intelligenza, una sensibilità ed era avanti a tutti, fino al punto che insomma qualcuno si trovava un po' a disagio. A questo punto, guardandoci intorno, ci accorgiamo che due o tre barche si sono silenziosamente avvicinate e qualcuno accenna un discreto applauso. È un grande imbarazzo di tutti noi, che non sappiamo cosa fare se non sorridere. Allora, una di queste barche si avvicina ancora di più. Un signore scuro di pelle e capelli accosta la sua barca alla nostra, saluta papà e rivolgendosi a lui dice «Vossia permette?» e al suo assenso porge un polpo fresco appena pescato a mamma. Tutti siamo incantati da tanta galanteria e sono certo il grazie mormorato dalla mamma sarà rimasto fra i ricordi più cari del bravo pescatore. Poine. Faberi e stevie, non mi fa spantacare, son marinare a tirarezza, ma ballerezza sto La giornata di inizio gennaio, fredda e piena di attese per l'anno nuovo, mi è sembrato che una storia come questa fosse quasi benaugurante. Come se il racconto di una giornata al mare, al caldo di un'estate di tanti anni fa, coronata da un canto dolce e ammagliante come quello della mamma di Gioacchino, potesse essere quasi di buon auspicio per questo 2013. Ogni volta che mi è capitato di sentire un canto gratuito, cioè non su un palco intendo o davanti a uno schermo, quando ho quasi rubato quelle note che si alzavano nell'aria proveniente da chissà dove, ho sempre pensato che quello fosse quasi come trovare un quadrifoglio o scoprire una coccinella posata sulla propria mano da fare volare via. E la prima volta mi è successo una decina di anni fa, forse di più, ero a Spoleto. Era estate, io ero lì per fare un'audizione per uno spettacolo. Spoleto è un posto magnifico, è un po' difficile da raggiungere e per questo motivo è quasi protetto. Nell'alberghetto in cui avevo dormito, la mattina ero stato svegliato molto presto da dei versi che definire canto sarebbe un tantino esagerato. Poi, più tardi, scoprì che quelli si chiamavano gorgheggi ed erano un modo per scaldarsi la voce. Proprio nella stanza a fianco alla mia stavano due giovani cantanti liriche che si preparavano per lo spettacolo della sera. Perché Spoleto è anche sede di un festival molto conosciuto che si chiama il Festival dei Due Mondi, in cui si può vedere danza, teatro, musica e opera lirica. Quando uscii dalla doccia e aprì la finestra, nella mia stanza entrò questo suono qui. Non sapevo cosa fosse, non sapevo da dove venisse, ma ho molto bene in mente la sensazione di sospensione e di regalo che provai. Non ho mai più cercato nemmeno cosa fosse quel canto e solo ora che ho voluto inserirlo in questa puntata ho scoperto che è un'aria che si intitola Parigi o cara, dalla Traviata di Giuseppe Verdi. Quel provino andò bene e mi fermai a Spoleto 2 mesi, tra prove e spettacolo. La seconda volta invece che mi è capitato di ricevere un canto in regalo, simile a questo, era in un posto e una situazione totalmente diversa. Questa in realtà è una storia che io ho già raccontato quando raccontavo la mia storia un paio d'anni fa. Mi trovavo a Procida e cercavo un uomo a cui la sua donna aveva scritto una lettera molti anni prima, una lettera molto importante, solo che alla fine invece che spedirgliela l'aveva lasciata nel muro del mio bagno, che era stato il suo, un'altra storia. In quell'occasione, su quell'isola splendida, avevo conosciuto una ragazza che faceva giocare il suo cane su una spiaggia. Ma poco prima, cercando le indicazioni per arrivare a casa di quel tizio, perdendomi nelle vie del paese alto di Procida, terra murata, mi trovai a passare inconsapevolmente vicino al Conservatorio delle Orfane, un edificio del 1600 con le mura in tufo, da cui sentii uscire una canzone leggera come l'aria, che mi sono fermato ad ascoltare fino alla fine. Oggi si parla, grazie alla storia di Gioacchino, o Gino, lui preferisce essere chiamato così, si parla di tutte le volte in cui vi è capitato di ascoltare gratuitamente, dove per gratuitamente non si intende solo alla portoghese, cioè non entrando di strafora ai concerti, ma per strada, in qualche occasione particolare, vi è capitato di ascoltare gratuitamente e per caso una splendida canzone. Antonella scrive al 349-238-6666. Vivo a Milano in zona San Siro, vicino allo stadio Meazza, e mio malgrado mi sento, completamente distorti ma gratis, quasi tutti i concerti estivi, da Vasco Rossi a Bruce Springsteen. C'è gente, Antonella, che pagherebbe probabilmente anche per sentirseli tutti distorti quei concerti. 349-238-6666. Io però voglio fare un passo indietro e tornare a 50-60 anni fa sulla Riviera dei Ciclopi e stare insieme a Gino. Pronto Gino? Pronto, sono io Gino, buongiorno. Come stai? Sono qua a Aci Castello, sotto il sole ancora. Ad Aci Castello c'è sempre il sole, immagino. Quasi, quasi. Senti Gino, ma quindi tu ti trovi esattamente dove si svolge la storia che ci hai mandato oltre 50 anni fa? No, la storia che vi ho mandato dista da qui una dozzina di chilometri, poco più, poco meno. Ok, insomma, però più o meno siamo lì, Sicilia. Sempre la Riviera dei Ciclopi. Sempre la Riviera dei Ciclopi. Senti, torniamo un attimo là, torniamo a quanti anni avevi Gino all'epoca? All'incirca 7 anni, 8 forse. Quindi parliamo di più di 60 anni fa. Sì, proprio così. Senti, tua mamma era solita cantare oppure era stato un caso quello? Cioè all'improvviso aveva cominciato a cantare? No, lei cantava molto in casa, aveva una voce da contralto naturale, mai studiata, e cantava. All'epoca erano dove poteva spiegare più la voce, per la maggior parte erano le canzoni classiche, le napoletane, no? Certo. Che spessissimo hanno molto spiegamento di voce, e ogni tanto poi però dopo i 40 anni potrei dire l'hanno fatta cantare in chiesa tanto. Ah ok, quindi insomma aveva una voce predisposta per il canto quantomeno. Sì, una voce bellissima. Senti, molto bella, a parte che personalmente era una bellissima donna. Senti Gino, invece da allora ad oggi, cioè in questi 60, quasi 70 anni di vita, tu che cosa hai fatto? Hai studiato, hai lavorato, adesso sei in pensione, come li hai passati questi anni? Li ho passati anni pieni, ho fatto una famiglia, ho tre meravigliose figlie, mi sono messo in pensione, ho studiato e lavorato, sono stato obbligato poi per motivi di lavoro a diplomarmi in geometra, mentre io sono portato per il classificante, comunque sono il geometra immeritatamente. Senti Gino, cosa hai fatto? Quindi hai fatto il geometra nella vita? Purtroppo. purtroppo, no, devo dire con soddisfazione, il mio impiego è stato molto, molto soddisfacente. Senti, invece mi raccontavi prima fuori onda che tua figlia ti ha iniziato a Voi Siete Qui, ti ha parlato di questo programma e ti ha invitato a mandare una storia, giusto? La mia modernissima e intelligentissima figlia Susanna, che fra l'altro vive a Roma lei. Ah, ok. Tu invece senti, mi raccontavi che adesso, oggi siamo ai primi giorni di gennaio, tu vivi in Sicilia, ma a breve, tra qualche giorno, parti per Santo Domingo perché parte dell'anno la passi là, giusto? Sì, sì, buona parte, più di un anno, anche di più. Dove esattamente? Alla capitale, proprio a Santo Domingo alla capitale. E che cosa c'è di più bello a Santo Domingo che qui non c'è, o in Sicilia non c'è? Cioè, perché preferisci stare là? Beh, innanzitutto c'è una sola estate, non ci sono altre stagioni. Ah, ok. Per un amante del mare come me è una cosa notevolissima. Certo. E poi c'è, come dire, movimento che qua è molto meno, là c'è il carpe diem, vive il giorno, non, sì. Nient'altro che il giorno, e vivono in questa ottica, quindi c'è moltissima allegria, moltissima comunicabilità, molta disposizione alla socialità. Senti, ma quindi hai degli amici là, oppure hai dei parenti, o te li sei fatti arrivando gli amici? Cioè, hai conosciuto persone di Santo Domingo, domenicani, e quindi hai degli amici, una sorta di piccola comunità là a Santo Domingo? Sì, però devo dire che ho quasi esclusivamente amiche, perché gli amici là non lo so, non quadrano, pensano a ubriacarsi parecchio, hanno un modo di vivere che non è consono al tuo, insomma, alla mentalità in particolare. Io fra l'altro non bevo, però le donne invece sono più accoglienti, più vogliose di migliorarsi, e quindi diventano più umili, hanno voglia di migliorarsi, mentre l'uomo è presuntuoso. Io sono il maschio, qua è che mi tocca. Ho capito, ne facciamo una questione. Mentalità che in Italia c'era 40 anni fa. Certo, ne facciamo una questione di genere. Gino, io purtroppo ti devo salutare perché ho poco tempo. Mi dici però qual è un tuo buon proposito? Non lo facciamo mai, è una cosa che non chiedo mai, ma con te la voglio fare. Un tuo buon proposito per questo 2013? Il mio buon proposito per questo 2013, sono egoista, conservarmi in salute, perché ho 75 anni e grazie a Dio sto bene. Sono molto egoista in questo senso. No, ma mi sembra la cosa migliore, no? Insomma, sperare di avere ancora un po' in salute del tempo buono, soprattutto per intellettuale. Sé. Gino, ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata, la storia e il piccolo insegnamento. Grazie a tutti voi. Ciao Gino, alla prossima. Voi siete qui. Ecco, se vi è capitato, come era capitato a me quando lessi la prima volta la storia di Gioacchino, di commuovervi per questa scena del pescatore che arriva e chiede, vossia permette, chiede il permesso al padre e regala un polpo a questa signora che ha cantato una canzone magnifica, ecco, beh, allora preparatevi per questa che sta venendo. Questa storia che, come vi dicevo prima, ha mandato Cristina, immaginando di essere nei panni di sua madre, è arrivata accompagnata da una mail che diceva: salve, questa è la storia di Luciana, mia mamma. È una storia fatta di ricordi della sua vita, di come per capire cosa accade nel presente lei abbia dovuto saper imparare ad ascoltare e concentrarsi, collegare continuamente un ricordo a un altro. Ormai mia mamma non parla più da quasi 3 anni e questo è un ipotetico racconto di come passa le sue giornate. Non poi così tanto ipotetico, perché comunque le siamo vicini tutto il giorno e chiacchieriamo a modo nostro, riuscendo a capirci. Che abbiate dei parenti che sono nelle condizioni della mamma di Cristina oppure no, ascoltatevi questa puntata e vi ripeto, se avete voglia di dedicarla alla mamma, secondo me potrebbe essere un bel regalo estivo. Questa mattina c'è Claudio, il fisioterapista, quindi deve essere martedì o venerdì. Cerco di concentrarmi. Dunque, mia figlia Rosanna ieri è stata al lavoro per più giorni di fila, quindi la domenica è lontana. Oggi è venerdì, di sicuro. Sento che il mio fisioterapista sta parlando con l'altra mia figlia, Cristina, che sta con me quasi tutto il giorno. Claudio adesso ha quasi finito. Mi sistemano meglio nel letto. Cristina gli paga le due sedute settimanali. Esce e socchiude gli scuretti delle finestre. E quando rientra mi chiede se mi va di sentire un po' di musica. Le dico di sì, muovendo appena le labbra, ma lei mi capisce. E aggiunge: faccio io mamma, promesso, niente Vasco Rossi né Ligabue. Per me va bene, perché tanto lo so che nel suo PC ha una cartellina con una compilation di musica solo per me, per farmi rilassare, che varia da Gianni Morandi a Celentano, Ennio Morricone con le sue più famose colonne sonore, Andrea Bocelli, la musica che piace a me. Mia mamma piace moltissimo ascoltare la musica, le piace moltissimo Gianni Morandi, musica classica tipo i ragazzi della Clerici, Il Volo, le piace moltissimo anche ascoltare canzoni del Liscio, che le ricordano i bei tempi andati di quando andavano in balera. Come film invece ha una predilezione per Kevin Costner, quindi tutti i film che ha fatto lui li abbiamo visti, rivisti e stravisti, che ormai li conosciamo a memoria. Lei clicca su Esegui tutti e parte un misto di musica che si espande leggera nella nostra casa. Ascolto anche i rumori di sottofondo, perché è l'unico modo che ho per capire che cosa mi sta succedendo intorno. Abitiamo in campagna, in una casa coloniale rustica, parzialmente restaurata. Attaccati all'abitazione dove abito, con le mie due figlie e mio marito, ci sono il portico, i pollai e una vecchia stalla che mia figlia Cristina ha risistemato a laboratorio, fa le sue ceramiche. È per questo che lei può badare a me, perché riesce a lavorare a casa. L'altra mia figlia invece lavora in un paesino vicino al nostro, veste i ciclisti professionisti e non. Torna per pranzo e alle 18 di solito, la sera è quasi sempre a casa. Ascolto i rumori, sento le galline cantare, hanno fatto l'uovo. Se i cani abbaiano tutti insieme, ne abbiamo 5 mi sembra, sì, ne abbiamo 5. Se abbaiano tutti insieme significa che è arrivato qualcuno, qualche visita per me o qualche cliente o amico di Cristina. Se ne abbaia uno solo o a coppie, significa che nel vigneto davanti a casa si è fatto vivo un fagiano o una lepre o un gatto. Di solito sono Sara e Birillo, gli esperti cani da penna. Gli altri invece, Arno, Diana e Bill, sono specializzati nelle lepri e nei gatti, nel senso che abbaiano solo a vederne passare uno per la corte. Si sentono anche gli uccelli cinguettare, le rondini, i passeri, i merli e anche il pappafico. Il pappafico è un uccello simpaticissimo, a sentire le mie figlie che lo inseguono spesso per fotografarlo. Molto vivace e litigioso, grande come una gazza più o meno, di un bel colore giallo-oro intenso, che arriva dai paesi caldi e se ne va nello stesso periodo delle rondini, parte un po' prima, appena il caldo sparisce. Si nutre di fichi. Nel nostro vigneto ce ne sono 3 piante, quindi qui ha trovato un habitat ideale. Sono ormai 5-6 anni che ha ripopolato le nostre campagne. Down on Bowery they lose their ball eyes and their lip mouths in the night, and stumbling through the street they say, sir, do you got a light? And if you do, then you're my friend, and if you don't, then you're my foe. And if you are a deity of any sort, then please don't go. Marito che si occupa del vigneto e dell'orto. Siamo sposati da 44 anni, abbiamo 3 figli, Rosanna, Cristina e Roberto. Le ragazze vivono con noi mentre il maschio è sposato e abita a una decina di chilometri da noi. Mi ha reso nonna di un bellissimo nipotino, quasi un anno e mezzo, si chiama Gabriele. Io sono distesa a letto. Adesso, dopo tutti questi pensieri e tutto questo ascoltare, mi sto sopendo un po'. Saranno le 10 del mattino, se mi addormento mi lasciano riposare fin verso le 11:30. Poi mi preparano per farmi sedere sulla sedia a rotelle, mentre si pranza guardando la TV e parlando delle varie cose successe in famiglia. Passo la giornata quasi completamente a letto, tranne gli orari dei pasti. E vivo bene anche così. Ascolto, osservo, attraverso spezzoni della memoria sul quotidiano e ricostruisco quello che mi accade intorno. Purtroppo non sempre ricordo subito che giorno è o cosa ho fatto ieri o cosa dovrò fare domani. La mia giornata trascorre ormai nella ripetizione di gesti o di usi. Il martedì e il venerdì il fisioterapista, il giovedì il medico, il mercoledì e il sabato l'infermiera. Nel weekend le visite dei parenti, di mio figlio con mio nipote, di mia nuora. Le telefonate da Varese, di mia sorella Mafalda. Da un annetto circa ho anche l'abitudine di ascoltare alla radio verso le 4 del pomeriggio una trasmissione. È Cristina che l'ha portata qui la radio, dicendomi: mamma, oggi ascoltiamo una nuova storia, la storia di qualcuno che scrive della sua vita. Ti piacerà. È stato l'ultimo dei suoi ex fidanzati a contagiarla con le storie degli altri. Queste cose che so dei vari morosi o delle loro abitudini non le so perché me le confidano loro, eh. Le mie figlie parlano fra di loro, si consigliano e io, ascoltando, capisco e vengo a sapere ciò che fanno, che combinano con i loro amici. È come se si raccontassero un segreto con me presente, sicure che non lo racconterò perché tanto non posso parlare, o perché magari me lo dimentico, chi lo sa. È una strana cosa, ma ormai da qualche anno funziona così. Quello che succede in casa, praticamente lei, anche se è ferma a letto, comunque lo vive, o tramite i nostri racconti, o comunque quando è sveglia ascolta e quindi partecipa. La rendiamo partecipe della nostra vita, anche di quello che è il mondo lavorativo nostro, mio, di mia sorella, degli avvenimenti che succedono anche adesso, le elezioni, le spieghiamo un po' come sta andando un po' il mondo. Io e mio marito Franco ci siamo conosciuti giovanissimi, le nostre famiglie hanno sempre vissuto vicine. Cristina, per sdrammatizzare a proposito dei suoi fallimenti amorosi, quando discute con mio marito lo becca sempre dicendogli: sei fortunato tu papà, che per trovarti l'amorosa hai dovuto solo saltare 3 fossi. Sì, perché effettivamente è così, si abitava molto vicini e siamo cresciuti insieme. Abbiamo 6 anni di differenza, ma lui è sempre stato interessato a me. Mi ricordo che da piccola, vedendo e sapendo i lavori che lui, suo padre, suo nonno e i suoi fratelli dovevano fare nei campi, io lo aspettavo lungo la strada che portava a casa mia. Una stradina ghiaiata, con sassi piccoli, bianchi, alla cui destra correva un corso d'acqua, il Gabaldone. Era abbastanza largo come fosso, e sull'argine che separava il fosso dalla strada, la mia famiglia aveva piantato alberi da frutta e salici piangenti. Così, in un tiepido giorno di fine maggio, con il sottofondo dell'acqua che scorre e i lunghi rami dei salici che si lasciano accarezzare dalla corrente, io sono qui, nascosta, arrampicata su un albero di ciliegie, e aspetto il ragazzo di cui sono innamorata. Aspetto che arrivi a rastrellare il fieno appena tagliato. Lui arriva da solo e inizia il suo lavoro. Non mi vede. Così, un po' per attirare la sua attenzione e un po' per scherzo, inizio a lanciargli ciliegie. Non se ne accorge subito. Si guarda intorno e, non capendo e non vedendo, sbuffando, si rimette al lavoro. Ne lancio ancora un paio e lui si ferma, guardando di lato, in alto. Non riesco a trattenere le risate e mi faccio scoprire. Ho quasi 14 anni e questo è in assoluto uno dei ricordi più belli che ho. È l'inizio dell'amore di tutta la mia vita. Ci siamo sposati 4 anni più tardi, avevo 18 anni. Mio papà ha dovuto firmare in comune per farmi avere il permesso, perché allora la maggiore età si raggiungeva a 21 anni. Between the words that I don't say, beneath your sacred nights and days, through the gales of life and laughter, when you can't see what you're after. The evenings and the afternoons are measured out in coffee spoons. Between the sunshine and the rain, I thought I'd something more to say. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Ci sono 3 donne nella foto che ci ha mandato Cristina, che potete sempre vedere come al solito sul nostro sito Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. Sono 3 donne, immagino sia una la sua mamma che è su una sedia a rotelle e tiene in mano un ombrello chiuso. Poi ci sono due ragazze che immagino siano lei e la sorella. Siamo in montagna, da qualche parte in montagna, su una strada asfaltata dietro a cui si vede il tipico paesaggio di montagna, cioè una montagna verde perché sarà sicuramente estate, dei boschi sparpagliati e un piccolo paesello, un borgo di montagna in fondo su un altopiano, che di solito è il posto che si vuole raggiungere quando si parte, un posto lontano che immagini come l'obiettivo da raggiungere. Immedesimazione, sostantivo maschile, sostanziale attuazione di un efficace e dinamico rapporto di identità. Etimo derivato di immedesimare, data 1747. Come facciamo tutti i giorni, noi in questa seconda parte, dopo la borsa, lo facciamo anche prima di solito, però soprattutto in questa seconda parte, lo dico per quelli meno attenti, che magari pensano che questo programma sia un corpo unico, non è così. Dopo la borsa, nella parte finale di questo programma, noi cerchiamo di guardare la storia che abbiamo raccontato da un altro punto di vista. La storia di oggi è una storia molto delicata, no? La storia di Cristina, o meglio della mamma di Cristina, che guarda il mondo con gli occhi di una persona che non riesce a raccontarlo. Di fatto Cristina ha fatto una cosa che è vecchia come il mondo, è la storia della rappresentazione, cioè si è messa nei panni di un'altra persona, che in questo caso è una persona, non è un personaggio, ma diventare un altro, scriverlo, dirigerlo e recitarlo, ha a che fare con la spettacolarità, col mondo del teatro, del cinema, da una vita. Io avevo voglia di parlare con uno che ne sa più di me e quindi ho chiamato Mattia Torre. Pronto Mattia? Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Ciao. Mattia Torre è uno bravo sostanzialmente, però per capire chi è basta fare due nomi, uno è Boris e l'altro invece è Buttafuori, per quelli che l'avessero visto. Era su Fox, giusto Mattia? No, Buttafuori era su Rai 3. Ah, su Rai 3, quindi probabilmente... In un lontano agosto, in un momento, ecco, in un palinsesto così, diciamo, solitario, però sì, no, era Rai 3. Però è arrivato al pubblico, no? Ma guarda, a un piccolo pubblico appassionato senz'altro, no? Mi fa ridere che lo citi accanto a Boris, in realtà noi di Buttafuori siamo orgogliosissimi, ma appunto... Ma perché a me piaceva Buttafuori, è vero, però, no, anche a noi. Però era una bellissima idea di questi due lì davanti. Diciamo che è stata un'altra serie fatta così in grande libertà, diciamo. Boris è stato un fenomeno talmente di culto che anche chi non lo ha visto, perlomeno dei pezzi su YouTube, li ha intercettati, no? Era un po' il dubbio, sì. Non era un po' il vostro dubbio quello che fosse molto molto per addetti ai lavori o gente che avesse un palato molto fino? Guarda, era quello che ci dicevano all'inizio, soprattutto gli altri. Noi abbiamo sempre avuto la speranza di raccontare invece un tema più ampio, perché il mondo del lavoro e poi, sai, dietro le quinte del mondo dello spettacolo spesso è anche metafora del paese. E poi quando invece dopo tanti anni è andato in onda su Rai 3 l'anno scorso per un grande pubblico, invece c'è stata la conferma che insomma non è così chiuso e per addetti, diciamo, non è così sofisticato, però pop, di Chiaro. Questo siamo molto orgogliosi, sì. Mattia, però tu scrivi molto anche per il teatro, in realtà hai cominciato da lì, correggimi se sbaglio. Sì, io ho iniziato da lì negli anni 90 con Giacomo Ciarrapico, abbiamo scritto quattro spettacoli nei teatri off romani e da lì abbiamo iniziato a capire che forse si poteva fare. Io mi ricordo, vidi al Franco Parenti 4-5-6 un paio di stagioni fa, che era uno spettacolo magnifico, è recitato molto bene, ma soprattutto la cosa interessante di quel lavoro lì era questa forma di lingua che avevi inventato, no? che sembrava una lingua del sud, ma non era nessuna lingua del sud, in verità. Sì, era un misto di lingue strane, c'era anche un po' di latino in mezzo, poi parole inventate, sì, era un tentativo così, un esperimento estremo. La cosa che volevo chiederti però, Mattia, era questo avere a che fare con questa materia che è lo scrivere e il dirigere personaggi che non esistono, o quantomeno che sono persone diverse da te, no? Cioè ti immagino scrivere anche solo 4-5-6 che ha tre persone, no, quanti personaggi ha? 3-4, non ricordo. Sì, beh, se 3/4, aspettano un quarto. Sì. Quando un drammaturgo, partiamo dal teatro, scrive un testo in cui ci sono, facciamo tre, anche solo 3-4 personaggi che parlano, immagina di essere persone diverse o immagina di pigliare dentro di sé pezzi diversi della propria vita? Ma forse entrambe le cose, nel senso che da una parte è un grande privilegio poter disporre di un personaggio e fargli dire quello che ti pare, insomma partiamo da questo, è un esercizio di grande libertà e anche di responsabilità, nel senso che poi deve essere sensato, deve essere spesso interessante e poi, come diciamo noi tecnicamente, deve essere tridimensionale, cioè così come nella vita ognuno di noi è molto difficile da giudicare in una frase, così anche i personaggi più riusciti sono quelli più complessi, che giudichi più difficilmente, che ti stupiscono, quindi è un esercizio, diciamo, virtuoso e anche molto complicato. Quello che succede è che poi spesso il personaggio deve essere a servizio di una storia oppure di un conflitto, di una dinamica, quindi generosamente i personaggi, dal mio punto di vista, sono a servizio di ciò che si racconta e a servizio di un'idea, e poi sono strumenti straordinari, come diciamo prima, perché portano la storia, la conducono, insomma. Mattia, tu da cosa parti per immaginarti un personaggio? Da una voce, da un atteggiamento, da una posizione del corpo? No, quello che dicevamo prima, in realtà la cosa che mi interessa di più, cercando, diciamo, nel mio specifico così, di raccontare sempre attraverso la commedia a pezzi di questo strambo paese, di questo complicato presente, io cerco sempre di partire da un'idea, da un'urgenza oppure da una sensazione, da un tema. Cioè 4-5-6 partito dal presupposto che la famiglia è un'istituzione, diciamo, al cui interno impera il conflitto, l'insofferenza, l'odio, cioè era una rappresentazione certo estrema, e quindi partivo da quell'assunto lì. Di conseguenza poi i personaggi si mettevano così a servizio di quella idea, e poi invece in Boris ci è capitato invece spesso di innamorarci proprio dell'idea di un personaggio, sì, di un attore vanitoso, di un regista completamente pazzo e via dicendo, quindi diciamo a seconda delle esigenze. Quello in Boris, correggimi se sbaglio, la sensazione era però che voi aveste dei riferimenti molto molto concreti nella realtà. Ah, sì, io lo dico sempre, Boris in realtà è un documentario horror di cose che esistono. Io e Giacomo e Luca abbiamo sempre, diciamo, il 90% delle cose che vediamo in Boris sono vere, poi noi ci divertiamo a raccontarle attraverso appunto quei folli meccanismi che sono i nostri personaggi, ecco. Però la materia è una materia viva e reale, e infatti funziona per questo, perché poi uno, anche se non fa non lavora nel mondo dello spettacolo, comunque si riconosce nella violenza, nell'insensatezza di certe dinamiche. Mattia, io nel salutarti, nel ringraziarti, vorrei ricordare quella battuta straordinaria che nel film Boris dice Antonio Catania a proposito di possibili declassamenti dal suo ruolo di dirigente, quando dice: mi devi aiutare perché sopra c'è la TV, sotto c'è il cinema. Dopo il cinema c'è la radio, dopo la radio c'è la morte. Ti ringrazio molto, grazie a Mattia Torre che è stato con me al telefono, buona giornata. Grazie a voi, ciao. Buona giornata, ciao. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata: Filippo Aureggi, Tiziano Bonini e Margherita Hina. Grazie soprattutto a Cristina, perché la storia di oggi era la sua e della sua mamma, e tutte e due, loro due, sono un punto rosso sulla mappa.